coro intere passa le notti. Che dai giardini, ove notturno il canto, un rivale ha dritto i teme. Intorno a me.